Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Lo dicevamo stamattina anche a Soldi e Dintorni, vi abbiamo anticipato il tema di cui avremo parlato quest'oggi. Oggi il Sole 24 Ore pubblica una guida molto interessante e molto utile per i giovani e per le loro famiglie che hanno terminato il percorso universitario e vogliono approfondire certe materie, arricchire le proprie conoscenze per prepararsi al meglio per il mondo del lavoro, e cioè vogliono specializzarsi con un master. E quella di oggi è proprio una guida ai master. Nelle università italiane ci sono 1850 proposte didattiche, tantissime, quindi tante opportunità che però in fondo possono anche rischiare di confondere le idee. Allora, come si sceglie il master giusto? Che costi devono sostenere le famiglie che vogliono garantire quello che il Sole definisce un supplemento di formazione per puntare alla conquista del primo impiego o anche ad un avanzamento di carriera? È il tema di cui parliamo oggi, grazie anche alle vostre domande, ai vostri stimoli naturalmente che ci potete fornire chiamandoci in diretta all'800 24 0024, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. I nostri ospiti di questa mattina, il collega che ha coordinato insieme ad altri questo ricco dossier, Cristiano Dell'Oste, bentornato tra di noi. Buongiorno a tutti. E poi avremo con noi Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale delle ACLI, che ci aiuterà a capire come le spese per i master possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi, a volte con un risparmio non indifferente per il bilancio delle famiglie. Dottor Conti, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere ritornato a Salva Danaio. Poi, per parlare un po' di più, come dire, del punto di vista didattico, dell'utilità anche per e poi fare il percorso lavorativo che fa al caso nostro, non più al caso nostro perché noi ormai Cristiano lavoriamo, quindi come dire, certo, al caso magari dei ragazzi a cui ci si rivolge anche con questa trasmissione, sentiremo Andrea Cammelli, direttore del consorzio Alma Laurea, che oggi scrive anche su questo dossier insieme ai colleghi del quotidiano. Vi ho ricordato tutti i numeri naturalmente per intervenire, per interagire con noi. Cominciate pure a prenotare i vostri interventi. Noi intanto, nel frattempo, diamo un'occhiata alla borsa. Parte male la settimana con ribassi che sono anche piuttosto differenziati, per la verità, perché sono meno 0,7% quello di Parigi, meno 0,8% quello di Londra, Francoforte perde un po' di più, l'1,25%, mentre Milano perde il 2,28% per tutta una serie di ragioni. Tra l'altro volevo anche ricordare che Borsa Italiana, Assosim e gli intermediari italiani hanno osservato alle 12 un minuto di silenzio in memoria dei 6 militari italiani caduti la scorsa settimana in Afghanistan. Abbiamo seguito in diretta la celebrazione dei funerali di Stato a Roma. I mercati sono comunque rimasti aperti. Il quadro di Piazza Affari, dicevamo, un solo titolo positivo in questo momento sul FTSE MIB è Luxottica, sta guadagnando lo 0,5%, mentre i cali più forti li abbiamo su Tenaris, che frena dopo un vero e proprio rally che l'ha portata a guadagnare qualcosa come il 25% dagli inizi di settembre. Il titolo oggi perde il 4,30%, poi scendono i titoli editoriali perché sono stati bocciati da un rapporto, un giudizio negativo di JP Morgan, quindi Mediaset meno 3,28, Mondadori meno 2,89, e poi abbiamo gran parte dei titoli bancari oggi in discesa: il Banco Popolare meno 3,32, Unicredit meno 3%. Il gruppo parla di una ipotesi di misure di rafforzamento patrimoniale che escluderebbero il ricorso ai Tremonti Bond. Non si capisce bene che natura avrà questa misura e il mercato nel frattempo boccia Mediolanum meno 2,90. Insomma, abbiamo poi un bel gruppo di titoli che perdono oltre il 2%, ma insomma dopo i rialzi recenti arrivano le prese di profitto. Euro su dollaro a 1,46,51, petrolio sotto i $71 al barile. Lasciamo la borsa e andiamo al tema di oggi. Si parla di master universitari. Agli italiani piace studiare anche dopo l'università? Scegliere di frequentare un master è una scelta che è stata intrapresa negli ultimi anni da numerosi studenti. Ma è davvero utile per trovare il lavoro giusto? Quali sono i criteri da valutare prima di intraprendere questo percorso che senza dubbio si rivela essere impegnativo sia in termini di spesa che di tempo? Le possibilità di scelta sono numerose, anche se rispetto all'anno scorso l'offerta formativa si è ridotta. Tra primo e secondo livello i corsi sono circa 1850, l'8% in meno rispetto a quelli presenti nel 2008. Un calo che ha colpito soprattutto i master di primo livello, considerati da molti come un'alternativa alla laurea specialistica. Ma quanto costa frequentare un master? Sicuramente la spesa da preventivare è piuttosto elevata. La media si aggira intorno ai 15.000 euro, con picchi che arrivano a 50.000 euro per il Master in Business Administration presso la Bocconi di Milano. Tuttavia, è possibile trovare corsi che costano circa 200 euro, come il Master in Mediazione dei Conflitti all'Università di Bologna. Accanto alle spese di iscrizione, bisogna inoltre considerare i costi relativi a vitto e alloggio nel caso di master fuori sede. Ebbene, dunque, valutare attentamente tutti i capitoli di spesa da affrontare in rapporto al ritorno occupazionale che potrebbe derivare dalla frequentazione del master. Un aiuto in questo senso arriva dalle detrazioni del 19% previste dal governo, che però non spettano a tutti i corsi. Si può infatti usufruire dello sconto solamente se il master è assimilabile a un corso universitario di specializzazione o se gestito da un'università pubblica o privata. E insomma, un bel investimento per le famiglie che soprattutto si cerca di capire se potrà essere produttivo nel futuro. Magari una famiglia spende anche volentieri questo denaro se poi chiaramente lo sbocco per il mondo del lavoro è più o meno istantaneo, efficace. Allora, Cristiano dell'Oste, un quadro, un affresco molto interessante rispetto a questa opportunità che viene offerta a molti giovani. Quando così leggevo settimana scorsa, venerdì, il dossier che era già pronto, e mi aveva proprio incuriosito questo numero di proposte che viene fatto dalle università italiane in termini di corsi, 1850, pensavo sono tantissimi e sono persino diminuiti rispetto agli ultimi anni. E sì, noi di fatto negli ultimi due anni abbiamo registrato la prima diminuzione dei corsi. Un paio d'anni fa erano arrivati a 2290, insomma, quindi abbiamo avuto questa prima inversione di tendenza che, noi lo diciamo, va accolta come una buona notizia, non tanto perché il master in sé non sia un'alternativa valida, ma perché forse negli ultimi anni l'offerta delle università era cresciuta davvero troppo, era andata a sovrapporsi in molti casi a corsi di laurea specialistici già esistenti o a frammentare in modo eccessivo l'offerta didattica. In questo senso una razionalizzazione va sicuramente accolta come una buona notizia. C'è però poi anche da fare alcune considerazioni sui criteri da seguire per cercare di individuare il corso migliore, perché le proposte sono tante e va detto spesso sul mercato, non solo da parte delle università ma anche da parte degli enti privati, coesistono corsi molto validi che hanno un ritorno occupazionale molto, molto rapido, non diciamo garantito perché non c'è mai nulla di garantito, ma insomma comunque molto, molto concreto, e altri corsi che invece rischiano effettivamente di tradursi in una perdita di tempo e di denaro. Questo bisogna dirlo anche per evitare di trasformare un percorso che può essere un'alternativa valida a certe condizioni in un qualcosa che invece poi non si rivela. Quindi, tale. Insomma, molto spesso magari si può trovare, come dire, il corso, il master, che sicuramente è quello che coincide di più con le nostre aspirazioni, ma magari poi queste a loro volta non coincidono invece con le esigenze del mondo del lavoro. Assolutamente. E questo, assolutamente. Insomma, poi si rivela ovviamente un investimento del tutto sbagliato per chi lo fa, per la famiglia, ma anche proprio per la persona che si impegna magari in questi master, che sono tutt'altro che poco impegnativi, nonostante siano, come dire, certo, qualcosa che costano molto. C'è un ascoltatore che ci scrive, ti leggo subito Cristiano la prima domanda. Paolo, i cosiddetti corsi di alta formazione, solitamente finanziati da borse, sono una valida alternativa? 800 ore sono sufficienti? Io non so adesso se sappiamo che cosa sono i corsi ad alta formazione, ne approfitto però per chiederti che differenza c'è, perché ho visto spesso questa differenza scritta sul master, tra un master di primo livello e un master di secondo livello. Certo. Beh, diciamo innanzitutto che il master in Italia ha una regolamentazione molto più blanda di quella che è prevista per i corsi di laurea, quindi di fatto ci possono essere enti privati che attivano corsi con requisiti più o meno strutturati e li chiamano master. Questo non è illegale, però bisogna avere ben presente che non è detto di per sé che un ente privato non sia valido come organizzatore, anzi i primi master in Italia sono nati proprio dal mondo privato in stretta collaborazione con le aziende, quindi da questo punto di vista possono essere proposte valide. però bisogna capire bene che sotto la dicitura master si trova di tutto. Quando poi si guarda all'ambito universitario, allora qui ci sono dei paletti che sono appunto fissati, anche se non sono, dicevamo, stringenti come quelli previsti per i corsi di laurea, e ci dicono che appunto il master di primo livello è quello che può essere frequentato dopo aver ottenuto una laurea appunto di primo livello, quindi la cosiddetta triennale, mentre il master di secondo livello è quello che può essere frequentato dopo aver conseguito una laurea magistrale, una laurea appunto lunga, per semplificare. In questo senso, ecco quello che si diceva anche nella scheda, i master di primo livello vanno valutati con una certa attenzione, perché di fatto si pongono un po' come alternativa e concorrenza alla laurea specialistica, e visto il modo in cui il mercato del lavoro italiano vede la laurea triennale, che non è sempre positivo, perché spesso la si considera come un titolo intermedio ma non un titolo a sé stante. Purtroppo la riforma è stata fatta da qualche anno, ma le aziende non hanno ancora ben recepito questo meccanismo. Allora i master di primo livello vanno sempre valutati con una certa cautela e attenzione. Bisogna vedere effettivamente che abbiano un contenuto professionale ben chiaro e sapere prima di iscriversi che lavoro si vuole andare a fare dopo, in questo senso. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Sul dossier di oggi troviamo anche un'attenta cosiddetta radiografia del budget prima dell'iscrizione, tutte le spese che vanno valutate, che devono essere sostenute per frequentare un master, che non attengono solamente ovviamente alle spese che riguardano la retta, ma ovviamente spesso per fare un master si deve andare, come per l'università, fuori di casa, e quindi pagare oltre alle tasse l'alloggio, ogni spesa va verificata, suggerisce Il Sole. E poi ci sono anche tutte le opportunità legate al fisco. Paolo Conti, CAF ACLI. Allora, per le famiglie che come dire, accettano di fare questo investimento per i propri ragazzi, c'è l'opportunità di approfittare della detrazione del 19% sulle spese di iscrizione al master, ma questa possibilità non vale per tutti quanti. Anche qui c'è un po' di confusione, qualche equivoco che va chiarito. Abbastanza, c'è una grande confusione, nel senso che sono detraibili le spese per frequentare i master, ma solo quelli fatti nelle università pubbliche italiane, sono 61 riconosciute. Se il master viene organizzato da una delle 26 università private, dovremo prendere in considerazione il costo non sostenuto direttamente in questa università, ma quello che si sarebbe sostenuto nel momento stesso in cui ci fosse stata l'iscrizione in un corrispondente master invece in un'università pubblica, la più vicina possibile alla residenza dello studente. Per cui queste grandi differenze che voi avete fatto notare prima tra master da 200 euro a master da 50.000 euro non danno tutti poi la possibilità di essere detratti nello stesso modo. Quindi il master deve essere assimilabile, lo ribadiamo ancora, ad un corso universitario di specializzazione, qualora non fosse effettuato da un'università pubblica. Esatto, per cui le università private sono detraibili, ma fino a concorrenza della somma che si sarebbe spesa nell'università pubblica. E quando una famiglia che deve fare una detrazione di questo tipo, Conti, viene nei vostri uffici per chiedere informazioni, come vi comportate? Avete difficoltà a reperire naturalmente informazioni relativamente al corso che va equiparato? Non è semplicissimo, assimilato. Anche perché assimilato, equiparato, infatti si parla di, prima di tutto bisogna verificare se esiste un corso identico o assolutamente affine in un'università pubblica. Spesso non accade, per cui l'equiparazione si fa sulla base delle materie che vengono identificate nel piano di studi del master, per cui si deve andare a ricavare quello che potrebbe essere il master più vicino a quello frequentato dal ragazzo, ma fatto da una università pubblica, in questo caso la più vicina possibile alla residenza del ragazzo. In ogni caso la detrazione fiscale c'è, quindi l'importante è informarsi bene prima di avventurarsi appunto nella scelta del master, qualora questa fosse anche una condizione importante nella scelta della famiglia, magari ecco cercate poi di capire che c'è questa complicazione nell'individuazione del cosiddetto master assimilabile. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Oggi vi stiamo illustrando quanto contiene il dossier in uscita oggi con il lunedì del Sole 24 Ore, la guida ai master post-universitari e quindi insomma tutte quelle specializzazioni che possono servire ai ragazzi che hanno terminato il percorso universitario per poter approfondire magari certe materie che sono, come dire, loro utili per arricchire le proprie conoscenze, per prepararsi al meglio per il mondo del lavoro. Noi stiamo cercando di capire intanto qual è l'offerta del mondo universitario, qual è l'offerta anche degli enti privati e quali sono anche le opportunità dal punto di vista fiscale, ne abbiamo parlato in apertura, per cercare di alleggerire questa spesa che per le famiglie molto spesso è tutt'altro che indifferente, perché ci sono dei master che costano anche molto. Tra l'altro ci sono anche le borse di studio, ci sono anche i prestiti appositi che sono stati messi in piedi negli ultimi anni dal sistema bancario e quindi insomma per poter alleviare questa spesa le opportunità ci sono. Detto questo, vorrei tornare proprio sull'aspetto, come dire, didattico, di utilità di questi master con le vostre domande. Adesso ne sentiremo un paio, ma do anche il benvenuto ad Andrea Cammelli, direttore del consorzio Alma Laurea. Dottor Cammelli, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei tra l'altro offre anche la sua analisi sul dossier questa mattina. Mi ha incuriosito particolarmente la sua posizione relativamente al fatto del momento in cui va fatto il master. Lei dice forse è meglio una volta laureati intraprendere già un piccolo percorso lavorativo ed eventualmente in un secondo momento decidere se fare il master o meno. Vale sempre questa regola secondo lei o in quali casi vale, dottor Cammelli? Ma sa, vale sempre, certamente adesso sono arrivato a questa conclusione perché vedo che una parte rilevante di giovani che frequentano i master proseguono direttamente il percorso di studio appena terminata l'università. E allora ho la sensazione che questo sia piuttosto un tentativo di rimandare l'ingresso nel mercato del lavoro piuttosto che quello di acquisire nuove conoscenze, competenze. E quindi penso invece che un giovane che abbia finito una laurea di primo livello, se riesce a avere una opportunità di formarsi sul posto del lavoro, poi rientra all'università e porta conoscenze ed esperienze che diventano un elemento, un valore aggiunto importante sia per sé ma anche per i docenti i quali, con i quali fa di collezione. E credo che sia importante che il ragazzo sperimenti il mondo del lavoro abbastanza in fretta, ecco, che non lo rinvii come capitava qualche anno fa, 30 anni, quando ormai rischia di non avere più il gusto per rischiare, per sperimentare. Mm-hmm. Quindi meglio prendere confidenza in tempi abbastanza rapidi con il mondo del lavoro, anche perché in questa maniera si può andare poi, come dire, per esclusione, questa è l'esperienza interessante che mi raccontava prima, molto personale, di Cristiano Dell'Oste. Lui dice, insomma, io ho terminato l'università, ho fatto subito un'esperienza nel mondo del lavoro, ho visto quello che non mi convinceva e mi sono dato al giornalismo e chissà con che grado di soddisfazione, Cristiano, ma adesso a parte questo può essere anche questa un'idea. No, al di là delle battute e delle storie personali è senz'altro molto condivisibile quello che dice il professor Cammelli, perché oggettivamente un primo contatto col mondo del lavoro è utile per chiarirsi le idee, per capire cosa si vuol fare, eventualmente cosa non si vuol fare. Il problema può sorgere quando l'ingresso nel mondo del lavoro non avviene magari in tempi così rapidi, perché nel mondo, diciamo, nel mondo perfetto, nel mondo ideale, chiaramente bisognerebbe iniziare a lavorare, fare una prima esperienza, capire quali sono le competenze di cui si ha bisogno e magari raccoglierle attraverso un corso post laurea. Spesso però ci si trova di fronte al dilemma, magari se accettare un lavoro non in linea con quanto si è fatto all'università, oppure se cercare di fare un supplemento di studio per acquisire le competenze e arrivare a fare qualcosa in linea con la propria vocazione, insomma, esatto. Certo. In questo senso credo che poi sia anche molto difficile dare regole generali, però sicuramente il master, quando è nato, era nato come un qualcosa che dava esattamente quella competenza che ti manca per arrivare a fare quel certo tipo di lavoro. Infatti noi abbiamo provato nell'ambito del dossier ad indicare alcune regole che, per quanto generali, possano aiutare l'orientamento, e sicuramente capire quali sono i contatti che gli organizzatori del master hanno con le aziende, certo, capire se sono previsti stage, dove, di quale durata, contattare gli ex allievi in modo da farsi raccontare che fine hanno fatto, letteralmente, se sono andati a lavorare dove volevano, se il master è servito, se lo rifarebbero, e poi cercare di misurare l'efficacia occupazionale con una serie di parametri intesi proprio anche come percentuale di occupati a 3 mesi, 6 mesi dalla fine del corso, che sono parametri che i master più seri pubblicano, mm-hmm. e già il fatto che magari questo non venga pubblicato può essere già un primo indizio. Certo, di scarsa parte trasparenza rispetto all'ente che organizza il corso, ma magari non è detto, ma in ogni caso... Magari di scarsa efficacia, ecco. Ecco, esatto. Allora, 800 24 0024, sentiamo subito i nostri ascoltatori che ci chiamano al nostro numero verde. Gianni dalla provincia di Firenze, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno Gianni. Complimenti per la trasmissione, offre spesso degli spunti interessanti anche per gli addetti ai lavori. Grazie. Io vengo alla domanda, ho 37 anni, sono laureato ormai da 13-14 anni, svolgo anche con discreta soddisfazione la libera professione, faccio il commercialista, mm-hmm. ma mi chiedevo questo, mi riallaccio anche a quello che diceva il Cammelli, mi sembra, di Alma Laurea. Sì. Avendo lavorato per così tanto tempo, penso di aver ottenuto un discreto bagaglio, diciamo, culturale e tecnico. Se a questo punto della carriera, diciamo, scolastica o lavorativa, uno intraprendesse il master e lo superasse ampiamente, facesse una cosa che gli piace fare, dalla parte delle aziende devono diciamo, inserire in ambito lavorativo chi ha fatto questo master, questa, diciamo, carriera viene letta come qualcuno che per ripiego ha fatto il master, o viene valutato positivamente il fatto che si somma al bagaglio lavorativo acquisito in un certo tempo, diciamo, le proprietà insegnate dal master? Perché penso che la chiave di lettura che si ha nell'insegnamento avendo lavorato siano molto più ampie e molto più interessanti rispetto a uno che ha soltanto, certo, ma tanto al punto tale che oggi le università riconoscono anche per chi lavora come dire un tot di crediti, quindi l'esperienza professionale viene proprio direttamente anche riconosciuta dall'università. Mi sembra una domanda molto intelligente quella fatta da Gianni. Professor Cammelli, allora, come rispondono le aziende ai giovani che escono dai master, anche a quelli che hanno già intrapreso il percorso lavorativo e che vogliono ulteriormente formarsi, documentarsi, insomma arricchire, dicevo prima, le proprie conoscenze? Ma io credo che, naturalmente, senza generalizzare, perché ci sono aziende e aziende, non c'è dubbio che un'esperienza come quella dell'ascoltatore che è intervenuto, ricca dal punto di vista, dico, professionale, che ulteriormente, dico, si rafforza con un master, immagino, dico, di secondo livello, e quindi con un'aggiunta di preparazione, dico, di formazione, forse perfino di esperienze, dico, internazionali, non può che essere letta con molta attenzione, con molta dico, importanza da parte, dico, delle imprese. È chiaro che il discorso cambia tra la grande impresa, la media impresa che ha un grande dico, intervento a livello, dico, internazionale, che si sta, dico, che è competitiva sul mercato, dico, globale, e la piccola, piccolissima, che forse di un'esperienza come quella che ti è stata indicata non ha necessariamente, dico, bisogno. Ma mi pare che l'importanza, diceva prima, dico, Dall'Osso, fondamentale è la qualità dell'offerta formativa, che non c'è dubbio può nascere soltanto da una collaborazione profonda fra i docenti dell'università e esperti del mondo del lavoro, del mondo produttivo, della pubblica amministrazione. Quando questa collaborazione diventa, dico, sviluppa un rapporto sinergico ad alta qualità, mi creda, sono convinto che chi frequenta i corsi non ha che da avere vantaggi, e dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista, mm-hmm. retributivo. Mi piacerebbe sentire quali aziende ha sentito l'Università di Firenze proponendo il master in irrigazione dei paesi in via di sviluppo, per carità, come dire, tecnologia che sarebbe assolutamente necessaria in certi paesi, ma adesso non so in questo momento se spendere 500 euro per questo. Magari, insomma, qualche persona che vuole andare a fare anche la volontaria in queste aree può servire anche una preparazione di questo tipo. Adesso, al di là, insomma, del commento del tutto personale, vorrei fare un'altra domanda a Paolo Conti, CAF Acri, sempre per affrontare la questione degli sconti fiscali. Mi veniva in mente, sentendo la considerazione di questo ragazzo di 37 anni che già lavora ma magari è interessato a fare un master, noi stiamo parlando di sconti fiscali, questi del 19% per le famiglie che ovviamente affrontano la spesa per il master del proprio figlio, ma chiaramente qualora si lavorasse già si può utilizzare anche la propria dichiarazione dei redditi per lo sconto fiscale? Qualora si facesse il master, sì. Certo. No, non c'è nessunissimo problema sotto questo aspetto. Adesso il collega probabilmente ha la possibilità di inserirlo all'interno della sua dichiarazione dei redditi tra le spese di reddito, però per chiunque vada a frequentare come lavoratore dipendente, per esempio, un master universitario, ha la possibilità di poter portare sulla propria dichiarazione dei redditi in detrazione il costo, mm-hmm. che ha sostenuto. Allora, ci sono anche molti interrogativi relativi ai master che vengono sostenuti e seguiti all'estero. Maria Franca da Genova, buongiorno intanto, mi sente? Buongiorno. Allora, Maria Franca da Genova, eccoci tutti per lei. Grazie. Io ho un figlio che si sta per laureare, sì, e vorrebbe fare un dottorato in America, però gli hanno detto che è meglio fare prima un master, perché poi è più semplice essere accettati per il dottorato. Allora io volevo sapere se ci sono delle facilitazioni per chi va all'estero a fare il master, delle borse di studio, qualunque cosa che rende la cosa più accessibile. No, però tra l'altro anche gli hanno detto che è meglio fare una cosa prima che l'altra. Professor Cammelli, allora, che tipo di suggerimento darebbe a Maria Franca, che è preoccupata per il figlio, si sta laureando, vorrebbe fare un dottorato all'estero, però gli hanno detto prima forse è meglio fare un master, ma insomma che differenza c'è anche fra i due percorsi? Ma intanto non vorrei che la locuzione master giocasse una brutta, perché è vero che all'estero il master vuol dire la laurea di secondo livello, quindi dico non vorrei che in realtà suggerissero a questo giovane prima di fare il dottorato di avere finito con la laurea specialistica. In ogni caso non c'è dubbio che un'ulteriore preparazione dopo una laurea di primo livello può facilitare l'operazione a cui la signora sta pensando. Bisogna essere molto attenti che comunque il master sia stato progettato per bene con questa finalità, diversamente rischia di essere una perdita di tempo, un investimento di soldi a perdere sostanzialmente, e forse non garantisce nemmeno quel successo alla selezione che invece negli Stati Uniti sicuramente faranno per ammettere il figlio al dottorato. Mm-hmm. Un altro mondo del tutto da esplorare, Cristiano, magari in un minuto aiutami tu, è quello delle borse di studio, perché non è che certo. Questo settore sia molto sostenuto da questi, no, diciamo, da questi rimborsi, che... chiamiamoli così, insomma, da questi finanziamenti. No, certo, diciamo pure che se parliamo di borse di studio in quanto tali, quindi di erogazioni a fondo perduto, la realtà italiana è molto complessa, ci sono vari canali, ma la sostanza è che comunque il livello delle erogazioni disponibili è molto basso. Nei casi migliori, nei casi in cui si è più fortunati, la borsa di studio è messa in palio magari per uno o due allievi migliori dallo stesso ente che organizza il master. Se così non è, bisogna allora avventurarsi in una ricerca delle opportunità migliori, che spesso passano per gli enti locali o per le aziende che sponsorizzano, al pari degli enti, magari alcune posizioni o alcuni posti nell'ambito di un certo corso. Quindi la cosa migliore da fare è veramente provare a battere molte strade, a cercare sia tramite le università sia tramite il web per individuare le opportunità che possono esistere, che va detto non sono molto numerose. Se invece parliamo dei finanziamenti, dei prestiti d'onore, parliamo di un qualcosa che sul mercato italiano si sta affermando in modo un po' migliore rispetto a quel che accadeva qualche anno fa, anche se va detto mediamente ci sono rilevazioni, indagini che dimostrano come i tassi di interesse praticati dalle nostre banche siano un po' più alti ancora di quelli che vengono praticati all'estero. Quindi c'è sì il vantaggio di poter iniziare poi a rimborsare il prestito quando si inizia a lavorare, il che ovviamente è la cosa migliore per un ragazzo che vuol fare il master, vuol trovare lavoro e poi dopo iniziare a ripagarlo, però va anche detto che le condizioni potrebbero essere più vantaggiose, soprattutto pensando alle finalità che questa tipologia di finanziamenti dovrebbero perseguire. C'è Alessandro che ci scrive: è più difficile trovare borse e prestiti per gli over 35, vi risulta? Beh, effettivamente sì, per esempio l'iniziativa che è nata da questo accordo fra governo e l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, certo, Diamogli Credito, consente proprio di accedere a prestiti fra 1.000 e 6.000 euro agli studenti fra i 18 e i 35 anni. Dopo i 35 ovviamente ci si immagina di avere a che fare con persone, certo, che già questa... lavorano, che quindi hanno un budget a disposizione. Sì, questa è un'altra peculiarità del sistema italiano. Anche il meccanismo delle detrazioni di cui parlavamo prima lascia di fatto esclusi tutti gli enti non universitari. Mm-mm. Quindi c'è un limite per le università private, ma quelle che non sono università sono direttamente tagliate fuori. Metto a prova adesso, anzi un po' dura perché la domanda è complessa, vediamo che indicazioni riusciamo a dare, Paolo Conti del CAF ACLI, a questo ascoltatore Andrea da Pisa, che ci racconta che ha vinto la borsa parziale al master tributario IPSOA, una borsa che copre il 50% del valore del master, quindi 9.000 euro, il costo più grande, lui racconta, sarà vivere 12 mesi a Milano, lo sappiamo bene Andrea. Nel caso di questo master non posso detrarre il costo in dichiarazione? C'è qualche ente pubblico o privato che offre borse di studi di copertura a spese di questo tipo a cui posso provare a concorrere? Beh, bella domanda. Beh, intanto diamo magari l'indicazione che siamo in grado di dare sulla questione della dichiarazione dei redditi e quindi la detrazione di questa spesa. Conti? No, diceva correttamente dell'oste prima, tutti gli enti privati di tipo non universitario sono esclusi dalla eventuale detraibilità dei costi sostenuti per la partecipazione a questi master, per cui è impossibile detrarre la spesa che sosterrà al corso degli IPSOA. Quindi in sostanza, se poi tra l'altro c'è la borsa di studio o meno, lui deve rivolgersi, credo, direttamente all'ente, sì, che organizza il master, che gli farà sapere se ha questa opportunità o meno, ma come dire, una cosa parallela è difficile che possa garantirgli il percorso di studio in un determinato ente. Il vantaggio che possiamo dire è che la borsa di studio che viene erogata sarà esente da imposte, ecco, almeno. Almeno quello, insomma. Non dovrà dichiarare la borsa di studio. Benissimo. Allora, io purtroppo ho solamente 2 minuti di tempo e 2 ascoltatori. Volevo sentire Roberto da Padova, che non ha avuto una grandissima esperienza con il master, insomma, non si ritiene molto soddisfatto rispetto a quella che ha fatta. Roberto, perché? Sì, buongiorno. Io volevo solo intervenire per dare la mia esperienza. Io ho fatto un executive MBA alla Bocconi a Milano, l'ho finito 2 anni fa. Un'esperienza, chiamiamola così, scolastica, interessantissima, che mi ha fatto crescere come persona e anche professionalmente. Il problema è stato dopo, perché lavoravo per un'azienda multinazionale americana, sono stato licenziato e per trovare lavoro ho dovuto inventarmi una libera professione. Cioè, quindi non è stato in grado di rivendere, diciamo, questa esperienza che aveva rifatto tornando all'università. Esattamente, e non ho trovato nessun, diciamo così, interesse da parte delle aziende o dei cacciatori di teste con cui ho avuto, diciamo così, contatti. Roberto, io la ringrazio. 1 minuto di tempo, purtroppo, prima della chiusura, quindi dovremmo essere in grado di dare delle conclusioni. Andrea Cammelli, un caso isolato, secondo lei, può capitare anche spesso? No, diciamo no, che dipende anche, come dire, un po' dal frangente economico che stiamo vivendo, che è quanto di più infelice abbiamo, purtroppo. Non c'è dubbio, questo è certo. Alma Laurea, che c'è dei curriculum vitae anche dei ragazzi con i master, naturalmente le aziende quest'anno segnala che il 29% di calo c'è stato nei primi 6 mesi del 2009 fra laureati con titoli di studio elevati, con master, quindi è chiaro che è l'intero sistema produttivo che sta soffrendo, anche se si vedono segnali, dico, di ripresa. Noi stiamo avviando, come sapete, come ho scritto sul dossier, dico, del Sole 24 Ore, questa indagine sui corsi di master di primo e secondo livello, che vale sostanzialmente a cogliere attentamente gli obiettivi che i master e la soddisfazione che i giovani hanno provato, e anche e soprattutto la condizione di occupazionale in un certo arco di tempo finito il master. Questo dovrebbe servire, insomma, a dare una patentino di qualità, diciamo così, ai master che verranno prodotti. E insomma, per tutte le altre curiosità sui master, per famiglie e studenti in precinto di fare la loro scelta, c'è il dossier in edicola quest'oggi con il Sole 24 Ore, guida ai master. Io intanto ringrazio tutti per essere stati con noi, devo chiudere rapidamente e dare la linea al giornale radio. Noi torniamo domani, parleremo di prezzi delle case, mercato immobiliare, dove sta andando, a che punto sono le compravendite. Vi auguro una buona giornata.